sei, per quale strada sei venuta fino a me. È stato il vento, la fortuna o il desiderio che ho di te. Chi sei, chi sei? Vuoi fare il nido proprio qui o sei soltanto una farfalla che si posa sulla mano e se ne va? Hai portato la gioia che cercavo e non trovavo più, o l'ultimo dolore che non si scorda mai. Hai portato l'amore o l'avventura, paura o nostalgia, dovrò morire ancora di pena o di allegria. Chi sei, chi sei? Fino a domani, fino a sempre ti vorrei, ma non vorrei morire prima di sapere finalmente chi sei. Portato la gioia che cercavo e non trovavo più, o l'ultimo dolore che non si scorda mai. M'hai portato l'amore o l'avventura, paura o nostalgia, dovrò morire ancora di pena o di allegria. Chi sei, chi sei? Fino a domani, fino a sempre ti vorrei, ma non vorrei morire prima di sapere finalmente.